e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Camminare, nuotare, sciare. Allora, sono circa 3.280, dai, un pochino. Hai contato così dettagliatamente? Sì, ma ho dovuto fare... prima presa dai calcoli. Perché ho dovuto fare una sottrazione per contare i passi che abbiamo percorso dall'uscita della metro Rofiera allo stand Cibus Italia, da cui trasmettiamo oggi per tutta questa settimana. E quindi non so quanti metri, ma io direi, Debra, che siamo a buon punto. 3.300 rotti circa, insomma. Poi ne abbiamo fatti prima, sì, ne faremo altri. Intanto chiediamo subito ai nostri amici da casa quanti passi fate voi al giorno. Avete un contapassi, un'app, magari sul vostro smartphone? Io ve li consiglio perché, con sorpresa, scoprirete che arrivare a quota 10.000 non è poi un'impresa impossibile. I vantaggi del cammino sono tanti, le conferme continuano ad arrivare, l'ultima fresca dal congresso della Società Europea di Cardiologia che si è appena concluso a Londra, ne parleremo. Intanto 800 24 00 24 se camminate, ma se volete anche prendervi cura dei vostri piedi, perché per camminare bisogna avere buoni piedi oltre che vincere la pigrizia. Era una puntata molto molto attesa da parte dei nostri ascoltatori che ce l'hanno chiesta a gran voce, vero Nicoletta? Allora, invece per la pagina di denari dalle 11.15 torna, oggi è giovedì, l'appuntamento con Investire Informati, il nostro spazio dedicato al risparmio con i consigli più utili, speriamo almeno, per lavorare sulla nostra finanza personale, sui nostri piccoli e grandi investimenti. Allora, oggi ci concentriamo su un tema che anche in questo caso ci avete chiesto di affrontare a gran voce, quello della la figura della consulente che ci dovrebbe accompagnare nelle scelte di risparmio e di investimento. Noi invitiamo sempre gli ascoltatori ad affidarsi ad un consulente di fiducia e poi però un po' si brancola nel buio, perché certo, non è facile, qualche volta serve un po' la pelle, si va sensazioni, a volte si gioca sul passaparola, ma insomma nel mercato ce ne sono tanti, come scegliere quello giusto, quali sono, dove li troviamo, come intercettare quello che fa per noi e cosa vi frena nell'individuarlo. Raccontateci le vostre esperienze all'800 24 0024. Allora, non costa nulla, non richiede requisiti particolari, non ha stagioni, è adatta per i solitari, indicata per chi anche ama stare in compagnia, è rilassante e ricaricante. Allora, che aspettate? Muoviamoci, muovetevi e camminiamo. Pensate che una passeggiata al giorno di 25 minuti allunga la vita di ben 7 anni. La notizia arriva da Oltremanica e sembra semplice, no? Ma in linea con noi per commentarla abbiamo il piacere di avere il professor Claudio Borghi, direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Buongiorno professore, come sta? Buongiorno cara, man mano che ci sentiamo riesci sempre a dire tutte queste diciture in tempi più rapidi, sta diventando bravissimo. Ha visto? Vado di corsa. Quanti passi ha già fatto lei? Oggi per la verità pochi, potrei trovare mille giustificazioni, ma ho avuto molte cose da fare nel mio studio, ma di solito cerco di rispettare questa regola dei 10.000 passi, essendo anch'io dotato di uno strumento che mi monitorizza il tempo in cui mi muovo, quindi oggi però è bene, una brutta giornata sedentaria. Oggi è una brutta... Domani recupereremo, è valido recuperare un giorno per l'altro, professor Borghi? Sì, sostanzialmente sì. O è la quotidianità? Sì. La quotidianità è più premia. Semplice perché ovviamente diventa un'abitudine, diventa parte del nostro stile di vita, ma naturalmente l'esercizio ha un significato, quanto più viene prolungato tanto maggiore il beneficio. Noi diciamo in generale un tempo minimo per ottenere un beneficio, facendone di più si ottiene un beneficio maggiore. Allora, diciamo un po' che la camminata è come la mela, no? Una camminata al giorno leva il medico di torno, lei naturalmente, professore, resti, non scappi e ci dica perché il cammino, e del cammino avete parlato al congresso della Società Europea di Cardiologia, sino a sottolineare che 25 minuti di camminata al giorno sarebbero in grado anche di allungare la vita di 7 anni. Certo, questa è una stima fatta ovviamente avendo oggi a disposizione tempi sufficientemente lunghi per mettere a confronto coloro che hanno camminato i famosi 25 minuti rispetto a coloro che non le hanno fatte, è possibile stabilire quale sia il vantaggio, perché camminare ovviamente permette non solo di mettere in moto gran parte dei muscoli e quindi di mantenere una maggiore efficienza fisica, ma permette anche di combattere molti dei fattori di rischio cardiovascolare, prima di tutto il dissesto della glicemia, quindi tutto quello che riguarda il diabete, l'ipertensione e un certo effetto anche nei confronti dei livelli di colesterolo, quindi fondamentalmente non costa niente e quello che rende in termini pratici è sicuramente straordinario. Professor Borghi, ma quali sono le ultime novità che sono emerse dal congresso che si è appena concluso? Lo ricordiamo? Si è concluso sì un paio di settimane fa, è stato un congresso interessante sicuramente in cui si è parlato di malattie cardiovascolari a 360 gradi, diciamo sul versante dello stile di vita o comunque della interpretazione non farmacologica delle malattie cardiovascolari, credo che questa affermazione dell'attività fisica, dell'esercizio fisico sia stata forse la più rilevante. Insieme ci sono state una serie di osservazioni ulteriori sul fatto che alcuni inquinanti ambientali possano influenzare lo sviluppo di fattori di rischio, in particolare possano graffiare la parete delle nostre arterie e quindi renderle più sensibili all'intervento di quei fattori di rischio tradizionali, quindi dovremo naturalmente stare attenti anche alla qualità dell'aria che respiriamo e dell'ambiente in cui viviamo. Non c'è nulla di nuovo, ma questa è una conferma importante che ci dice che dobbiamo cercare di vivere in un ambiente sano. Qualche novità anche dal punto di vista farmacologico, soprattutto buonissime novità per i pazienti seriamente ipercolesterolemici che fino a oggi non avevano una soluzione e che oggi trovano una soluzione terapeutica in un paio di farmaci rivoluzionari, e anche per i pazienti che hanno forme avanzate di malattie cardiovascolari che oggi possono essere significativamente rallentate anche in questo caso con un'importante novità terapeutica. Quindi ce n'è per tutti, per la prevenzione ce anche n'è per tutti. Allora torni presto a trovarci, professor Borghi, l'aspettiamo. Intanto buona giornata, cercherò di tornare e domani prestissimo e mi raccomando, sì, a qualche novità o qualche novità che riguarda una delle cose che anche metaforicamente sta vicino al mio cuore, l'ipertensione arteriosa. Siamo vicini al nostro congresso nazionale e spero che voi mi possiate ospitare per raccontare un pochino cosa c'è di nuovo in quell'ambito che Senti, lei sa interessa Deborah, il 40% della popolazione. Sto aprendo l'agenda, professor Borghi, se vuole già darci la data sono qua pronta a segnare. Allora professore, l'aspettiamo per tutte le novità sull'ipertensione. Grazie professore, grazie. Buona camminata anche a lei. Grazie infinita anche a voi. Allora, per camminare però, come anticipato, lo sappiamo, no? Ci vogliono buoni piedi, magri, corti, lunghi, grassocci, affusolati, piatti, tozzi che ci piacciono, no? Dobbiamo prendercene cura. Tra l'altro anche loro soffrono della sindrome da rientro, no? Dai sandali, dall'infradito, devono ora riprendere il loro posto nelle scarpe. Deborah sta sfoggiando addirittura lo stivale. Esatto, devo dire che qualcuno mi guarda con ribrezzo. Io invece ho questo tacco qua che è il miglior tacco che abbia trovato negli ultimi anni e mi trovo benissimo, per cui faccio molta fatica ad abbandonare anche lo stivale estivo, che comunque è molto leggero. Naturalmente la sindrome da rientro soffriranno magari anche i piedi dei nostri bambini abituati tutta l'estate a stare a piedi scalzi, magari in caso al mare, insomma mal comune, mezzo gaudio. Sentite un po'. Secondo le ultime statistiche, l'80% delle persone, in maggioranza donne, soffre di problemi ai piedi. A volte il dolore si irradia nella pianta, altre volte si localizza tra un dito e l'altro. Spesso è un callo a farci vedere le stelle. Chi non ne ha mai sofferto? Provate a pensare. Quando vi lamentate dei vostri piedi, lo fate perché avvertite dolore nella parte anteriore, nella zona del metatarso, o invece è il tallone, il vostro punto delicato? Il dolore è fisso o si irradia? Aumenta con il carico o è sempre uguale? Date un occhio alle vostre dita. Sono al loro posto? Oppure le vedete storte e accavallate? E osservate anche se le vostre scarpe si usurano e si rovinano di più e dove. Noi oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio la dottoressa Laura Bertelè, fisiatra, specialista in terapia fisica e riabilitazione motoria, psicologa e direttrice sanitaria della Fondazione Apostolo, autrice tra l'altro di un libro di cui abbiamo parlato molto e che io ormai conosco a memoria perché consulto spesso, ascolta e guarisci il tuo corpo, edito da Mondadori. Dottoressa Bertelè, buongiorno. Buongiorno, benvenuta. A voi tutti. Grazie. Noi abbiamo due piedi, un numero verde 800240024. Due manine per comporre il numero, quindi. Quali altre informazioni ha bisogno per dare una mano ai nostri piedi, dottoressa Bertelè? Beh, intanto se le persone hanno qualche problema lo possono manifestare. La cosa importante è intanto guardarli, toccarli, tenere presente che ci sono, perché noi diamo per scontato che ci sostengano, che ci portino in giro, ma pochissima attenzione diamo loro, quindi incominciamo a interessarci di loro. Infatti ci sostengono, ci portano in giro, però il piede, che possiamo definire proprio un organo straordinario, una struttura molto complessa, 30 ossa, articolazioni, legamenti, muscoli, tendini, nervi, vasi, che sono sottoposti quotidianamente a continue sollecitazioni, ma i piedi hanno davvero delle funzioni straordinarie, oltre quelle di permetterci di camminare, di spostarci, di sostenerci. Dunque, innanzitutto bisogna tenere presente che nel piede sono proiettati tutti gli organi, quindi se c'è qualche zona che fa male o viene sovraccaricata, vuol dire anche che sovraccarichiamo l'organo corrispondente, prima cosa. E poi ci dà la possibilità di scaricare il peso verso il basso, quindi se non abbiamo un buon appoggio ai piedi, tutto il corpo ne risente, fino alla testa. Infatti penso che molti possano dire e confermare, cosa che succede anche a me, che se ho le scarpe non giuste o strette mi viene mal di testa. È vero, è proprio un dolore che ti picchia in testa. 800 24 00 24. Dottoressa Bertelè, prima di dare la linea alle informazioni sul traffico, ricordiamo che a qualcuno possono fare male mentre i piedi sono in movimento, mentre durante il cammino, ad altri invece restando proprio fermi, appoggiando e facendo peso sul piede, caricando il peso, anche solo quello del nostro corpo. Il punto dove si localizza il dolore e anche capire se si irradia, rimane fisso, può darci delle indicazioni, quindi osservate le vostre scarpe, diteci anche quali scarpe indossate, prendete esempio da Deborah, osservate i vostri piedi, adesso esatto. Non portiamo ancora le calze, toglietevi le scarpe, guardatevele, massaggiatele un po', e se si lamentano siate pronte a riferirci quello che vi raccontano al nostro numero verde. Intanto andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Cuore e Denari. Oh, sta bene, Maurice. Sta bene. Ecco il piedino. Ecco anche l'altro. Freddo. Oh, ti ci abituerai. Dai, figliolo, vieni da papà. Che ti prende, ragazzo? Sono felice, papà. Ma che combini coi piedi? Sono felice anche loro. Fossi in te la smetterei, figliolo. Perché? Non è roba da pinguini, va bene? Va bene. Eccoci di nuovo insieme, oggi ci occupiamo della salute dei nostri piedi. In effetti la dottoressa Bertelè, che è qua con noi in studio, prima delle informazioni sul traffico, ha sottolineato un aspetto che tutti noi conosciamo: quando le scarpe ci fanno male il dolore batte in testa. Un'altra indicazione che voi dovete riferirci è se, osservando i vostri piedi, non è bisogno di osservarle perché tante volte si sentono, avete dei calli, dei duroni. Perché, dottoressa Bertelè? Perché i calli si formano quando c'è un sovraccarico, e il sovraccarico è in relazione a come appoggia il piede, e il piede appoggia in relazione a come è ruotato il ginocchio e a come abbiamo la posizione del bacino. Quindi di fatto i piedi ci parlano di tutto il corpo. Se non abbiamo una buona posizione di bacino, ad esempio un problema molto importante è una posizione del bacino troppo in avanti, diciamo un sedere in fuori eccessivamente, dà una rotazione del ginocchio che dà una rotazione del piede, e quindi poi si ha la lucevalgo, per esempio, e per noi è un segno premonitore di una patologia d'anca. Quindi attenzione, osservateli bene e chiamateci. 800 24 00 24, lo abbiamo citato prima nella sua presentazione, il titolo del suo ultimo libro, Ascolta e guarisci il tuo corpo, ma vale lo stesso per i nostri piedi? Potremmo pensare anche a un titolo, a un titolo di un nuovo libro, Ascolta e guarisci il tuo piede, dottoressa Bertelè? Sì, sono sicuramente una parte fondamentale del nostro corpo, proprio perché anche ci dà il radicamento per terra, cioè oltre al discorso puramente meccanico dell'appoggio, ci dà anche dal punto di vista psicologico un radicamento. Ad esempio i bambini che camminano in punta di piedi, e ce ne sono sempre di più, che stanno proprio corrono e stanno sempre in punta di piedi, sono bambini che fanno fatica a appoggiarci in questo mondo, cioè vogliono come fuggire dal mondo, fanno fatica a stare con i piedi per terra, come si dice. Sono un po' dei sognatori. Eh sì, forse sono più giusti loro di noi. I genitori che con dei bambini che tendono a camminare in punta di piedi, qual è il consiglio che può dare loro? Ma massaggiare molto i piedi, ci sono anche degli oli specifici per i piedi in questo senso che aiutano, farli stare a piedi nudi, sì, e toccare, ecco, i piedi dei bambini. Cioè anche noi dobbiamo stare a piedi nudi, ad esempio rimettiamo i piedi per terra, rimettiamo, ricontattiamo il terreno. Perché sa che invece le nonne, io così mi viene già subito in mente quello che succede metti in casa mia come mamma, vedi, sì, i nipotini scalzi, no, metti, no, le scarpine, ecco, cioè, perché le mamme e le nonne temono sempre che raffreddando i piedi si arrivi il raffreddore. Intanto che selezioniamo le domande che stanno arrivando, dottoressa Bertelè, dividiamo in due il nostro piede, partiamo dalla parte anteriore, quella del metatarso, quella su cui ci appoggiamo se ci mettiamo in punta di piedi e che ci sentiamo dolente soprattutto dopo aver camminato un'intera giornata sui tacchi. Parlo di noi donne, spesso pensiamo però che sia un problema di calzature, ma non è sempre così, e la prova lo è il fatto che ne soffrono anche gli uomini, che generalmente i tacchi non portano. Ma da che cosa può dipendere, come si può in qualche modo prevenire ma anche arrestare questo problema? Allora, la metatarsalgia, appunto, che è il dolore sotto le teste dei metatarsi, dipende comunque da un sovraccarico della parte anteriore del corpo, del piede, ed è dovuto all'accorciamento della muscolatura della gamba. È chiaro che i tacchi favoriscono questo accorciamento. Tra l'altro, dal punto di vista filogenetico, noi siamo i primi che hanno appoggiato il calcagno, cioè tutte le razze precedenti a noi corrono, sì, hanno gli zoccoli, invece noi appoggiamo il calcagno. Questo comporta comunque una tensione costante nel polpaccio che noi uomini abbiamo, e quindi una predisposizione a, a parte le tendiniti di cui magari parliamo, certo, ma ha un sovraccarico della parte anteriore. Allora bisogna cercare di stare a piedi nudi, fare stretching, molto stretching sul polpaccio e sui muscoli posteriori, non sollecitarli troppo. Certo. Cioè, quindi non correre troppo, non saltare troppo o controbilanciare con uno stretching. Quindi anche la salute del nostro piede, la forma del nostro piede, lo stato, ci può dare delle indicazioni sulle attività da fare, di anche attività sportive da privilegiare un po' per compensare, certo, quello, certo, che madre natura ci ha dato in dotazione. Invece occupiamoci di quella parte del piede che è nota anche nel mito, il famoso tallone d'Achille. Sì. Ecco, appunto, accennavo prima a questo fatto che, essendo questa muscolatura sempre sotto tensione, già di base nell'uomo, ma tanto più se facciamo salti, se corriamo, l'inserzione del tendine d'Achille, che è sul calcagno, sì, può infiammarsi. Quindi possiamo avere o tendiniti del tendine d'Achille o speroni, quelli che chiamano gli speroni calcaneari, la spina calcaneare, che sono molto molto dolenti, cioè danno molto fastidio alle persone che ne hanno. Ecco, in questo caso bisogna però non limitarci al discorso puramente del polpaccio, perché il problema è facile che venga dalla schiena. Quindi dobbiamo allungare tutta la muscolatura che viene dalla schiena. Quindi se il tendine tira, molto probabilmente è un segnale che ci manda il... Sì. Ecco, pensa tu, siamo tutti collegati, sì, no? Le catene muscolari. Certo, esattamente. Ecco, vogliamo sentire i nostri ascoltatori, esatto, perché li invitiamo, ma loro vogliono intervenire. Vogliono intervenire, sono pronti. Francesco da Mantova, Michele dalla provincia di Udine, una tempesta di messaggi che neanche vi sto dire, mi starebbe molto a cuore, poi magari sì, ne parliamo. Facciamo l'ora. Questa mamma, Manu dalla provincia di Belluno, scusa, adesso mi veniva Biella, già facevo subito la figurona. Non lo so, magari è Biella, però Biella. Sono una schiappa, aiutatemi. Nonostante mi alzi alle 5.30, faccio mestieri, ho due bimbi da gestire, in fabbrica sono seduta 8 ore al giorno, al ritorno gioco con i bambini, insomma cerca di muoversi quanto più può, ma non raggiunge mai 10.000 passi, contandoli. Insomma, quali consigli le possiamo dare? Vabbè, sì, intanto piena quanti ne farà questa persona? Cioè, penso che fra l'andare avanti e indietro nel lavoro, stare a giocare con i bambini, farà già tantissimo. Eventualmente, se riesce, faccia dei tratti a piedi invece di usare la macchina, andare a fare la spesa. Ma io penso che le mamme in questo senso siano quelle che già più sono sovraffaticate. Compenserà con un altro tipo, esatto, di movimento. Piuttosto magari si sdrai e vada una volta in più dal parrucchiere, che forse è meglio per lei. Allora, molti si lamentano nei messaggi che i piedi camminando si stancano e diventano dolenti. Questo non c'è una segnalazione, naturalmente, se uno porta le scarpe non adeguate, ma con delle scarpe comode e il piede che si lamenta dopo che abbiamo camminato, anche per non necessariamente dei percorsi molto lunghi. Quali segnali ci dai e che cosa possiamo fare soprattutto? Perché noi vogliamo i suoi consigli, dottoressa Bertelè. Allora, innanzitutto, appunto, può parlarci della schiena, quindi bisogna fare un controllo di schiena anche. Poi massaggiarli, perché si massaggiano pochi i piedi. È vero. Davanti alla televisione si possono massaggiare, si può fare, magari poi si infilano le dita come se si desse la mano al piede. E lo si massaggia. E poi appunto cerchiamo di fare dei bagni caldi, dei bagni freddi, mettere delle pomate, delle creme, prendiamoci cura di loro, che vuol dire già tanto, ecco. Vediamo se possiamo prenderci cura dei piedi di Michele dalla provincia di Udine, che in realtà chiede consigli per altri piedini. Buongiorno Michele, benvenuto rapidamente prima del GR. Buongiorno, salve. Senta, una domanda, dottoressa, per cortesia. La mia bambina, diciamo così, butta i piedini verso l'interno, no? Soprattutto uno. Mi dicono che fino a 10 anni di età non è una preoccupazione. Quindi a che età proprio è previsto un controllo per questo difetto, diciamo, se così possiamo chiamare? Grazie. Ma in realtà sono i 5 anni, perché c'è un discorso di antiversione del collo del femore che è fisiologico fino ai 5 anni. Però si può allo stesso guardarla e fare qualcosa, quindi anche prima. Un po' di ginnastica. Sì, un po' di lavoro sulla schiena. Un po' di lavoro sulla schiena, stretching, anche ai piccoli. E camminare ai piedi nudi. Noi camminiamo, ci stiamo cadendo dentro al nostro GR. Andiamo. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Gran Moravia e burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Adriene! Adriene! Dove sei, Adriene? Lasciatemi in pace! Chi mi frega niente del futuro a me? Adriene! Adriene! Ma se Rocky avesse avuto questa voce, il film avrebbe avuto lo stesso successo? Scopriamolo insieme. Voice Anatomy, il nuovo programma di Pino Insegno, io, da domenica 13 settembre alle ore 14.30 su Radio 24. Rifacciamola! Voce, Pino, voce! Andà bene così! Cuore e denari. Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Ci vorrebbe un amico, ma di quelli strafidati per i nostri risparmi, un punto di riferimento per gestirli, per scegliere anche nei passaggi delicati, per tranquillizzarci quando c'è una preoccupazione magari eccessiva, come quella che magari sta riguardando molte persone che adesso sono preoccupate per questi scenari nuovi sui mercati finanziari. Oggi nella rubrica Investire Informati, fra una decina di minuti circa, torneremo a parlare del consulente finanziario. Voi raccontateci se ne avete individuato uno, se avete ben chiaro la differenza fra consulente indipendente, promotore finanziario, private banker, financial advisor. Hanno mille denominazioni oggi, ma il ruolo è unico ed è molto importante per seguirci. 800 24 00 24, il numero per le vostre domande, a tra pochissimo. Piedi per terra per mettere radici, piedi veloci di corsa contro il tempo, passi più lenti di chi trascina i piedi. Egizio, greco, romano, parliamo di piedi, così si dividono in base alla loro forma. 800 24 00 24, a fare la differenza è il secondo dito. Sapete la forma del vostro piede, a quale delle tre categorie appartiene? Forse ci sono delle fragilità che caratterizzano ciascun tipo di piede. Ne stiamo parlando con la dottoressa Laura Bertelè, che è in linea con noi, pronta a rispondere alla domanda di Marco, che ci chiama da Bergamo. 800 24 00 24, in questa ultima parte di Cuore Denari dedicata alla salute vogliamo dare proprio la linea a tutti i nostri ascoltatori, quindi se non lo avete ancora fatto chiamate, intervenite per avere un consiglio, un suggerimento, una spiegazione dalla dottoressa Bertelè, una sorta di Il Medico Risponde. Marco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Eccoci, sì, io andiamo. Volevo fare questa domanda. Io premetto che sono uno sportivo e di chilometri ne faccio abbastanza tanti. Ne macina tanti, e sì. Sì, faccio gare di ultra trail da 100 km e oltre, e dunque di chilometri ne faccio. Da un piccolo problemino di pronazione, a furia penso di fare tanti chilometri, adesso ho un grosso problema di pronazione. Adesso volevo sapere dalla dottoressa se i plantari che vanno a risolvere questo problema, se è una soluzione, potrebbe essere una soluzione, e se lo è non va a compromettere comunque tutta la postura che ormai uno è abituato ad certo. avere durante questa attività. Durante. Caspita, Marco da Bergamo, di chilometri, insomma, è sì. un super atleta, direi. Sì, deve fare molta attenzione, perché già i plantari, anche quando uno non pratica molto sport, raddrizzando il piede, cioè forzando la posizione del piede, aggravano la posizione del ginocchio e dell'anca, perché la posizione del piede, soprattutto la pronazione, è dovuta a una rotazione interna eccessiva del ginocchio, che a sua volta è dovuta a una posizione del bacino in antiversione. Quindi in totale i plantari bisogna non metterli praticamente mai. Se uno ha molto male può mettere dei plantari ammortizzanti ma non modellanti, perché la volta plantare è come una molla, e se noi mettiamo un sostegno rigido a una molla, la molla non funziona più. Quindi estrema attenzione e vedere da dove viene il problema. Nel suo caso quasi sicuramente una rotazione interna eccessiva delle ginocchia. Sarebbe da guardare nell'insieme, come sempre. Certo, ma dottoressa Bertelè, per tutte le persone, ad esempio, il nostro ascoltatore faceva riferimento a una pronazione. Ci sono però tante persone che hanno i piedi piatti, e per non avere problemi alla schiena, per non poi avere il problema anche della famosa cipolla, che il piede piatto poi in qualche modo favorisce, si mettono i plantari. Allora che cosa si fa? No, in realtà i plantari poi aggravano il problema, anche se momentaneamente possono dare un sollievo dal punto di vista sintomatologico, cioè dei sintomi. Quello che è molto importante è appunto capire, guardare com'è il ginocchio, com'è sì. l'anca, perché correggere con un plantare il piede, poi si peggiorano il ginocchio e l'anca e si favorisce invece la lucevalgo. Quindi, ma quando lei mi parla di correzione, significa una ginnastica mirata? Sì, bisogna fare una terapia mirata sulla schiena e sulla rimessa in asse di tutta la posizione. Non fermiamoci a guardare solo il piede nel buco della serratura. Il piede piatto valgo è sempre un problema di antiversione, cioè di iperlordosi lombare, cioè un'accentuazione del sedere in fuori. Del sedere in fuori, ecco. Quindi il sedere un po' a mandolino. Esatto, però, è bello, però dà anche un po' dei problemi. Non si può avere tutto dalla vita, no? Infatti. Se abbiamo il sedere in fuori, il piede è un po' piatto. Ecco, poi non dimentichiamoci sì. che i piedi spesso, proprio perché sono in relazione al bacino, sono anche in relazione alla bocca, cioè all'occlusione. Proprio la settimana scorsa questo mio caro amico, che è il dottor Busato, che è un otorinolaringologista molto bravo, mi diceva che ha risolto dei problemi di dolori ai piedi di mesi di una persona, rimettendo a posto l'occlusione, perché aveva una malocclusione. Quindi lei mi sta parlando dell'uso del bite? Eventualmente, è da valutare cosa bisogna fare, cioè sicuramente in relazione a una asimmetria della masticazione, e questo ci pensa l'ognatologo, però certo. Si fanno dei test per vedere se dipende da quello. Tu pensa quanto bisogna camminare lungo il nostro corpo per esatto. arrivare a esatto. individuare sì, quella, brava, quella sì. l'origine del nostro problema. Abbiamo ancora tempo forse per sentire Gennaro, che ci chiama dalla provincia di Foggia. Gennaro, buongiorno. Buongiorno. Mi dica, Gennaro, però sì, camminiamo, certo. Cioè, passo sì. un po' sostenuto alla sua domanda. Riguarda, diciamo, una fitta che sento al tendine ogni tanto, sarà una volta al giorno, una volta ogni 2-3 giorni, insomma, e non so da che cosa dipenda. Premetto che prima facevo dello sport, adesso mi limito soltanto a camminare, perché ho alcune vertebre che certo, non sono tanto a posto. Si limiti ecco. a camminare innanzitutto, e poi bisogna che faccia un lavoro di stretching, di lavoro approfondito, cioè preciso, di allungamento sui polpacci e su tutta la muscolatura posteriore della bisogna gamba. Bisogna rivolgersi però, quando lei dice ad un fisioterapista che abbia questa formazione, cioè che abbia quest'ottica, insomma, delle catene muscolari, sì. dove rilassando veramente, partendo dalla testa ci esatto. scioglie fino ai esatto. piedi, da lunghezza. Dottoressa Bertelli, lei è arrivata con una pallina, sì, ecco, esatto. rapidamente, perché poi abbiamo investire informatici, sì. incamminiamo, non voglio rubare altro tempo. Dunque, è un consiglio che do agli ascoltatori per aiutarsi. Fate una prova, vi mettete in piedi, vi piegate in avanti, vedete fino a dove arrivate con le mani la distanza da terra. Poi vi mettete seduti o anche in piedi, come preferite, prendete una pallina, che è quelle palline che si usano per i cani, di sì. gomma piuma rigida. Se non avete niente, anche un limone va bene. Vi massaggiate bene tutta la pianta del piede accuratamente, mettendoci un discreto peso. Sì. Dopodiché riprovate la flessione anteriore, prima da una parte e poi la fate con tutti e due i piedi e provate e vedrete quanto scendete di più. Quindi io faccio passare il piede prima uno, poi l'altro, sì, su questa pallina o su questo limone. Io, sì, la pallina prendo un sacco del mio cane, ecco, per cui spero che me le impresti. Anche dal tennis, usate il limone e poi buttatelo via, mi raccomando. Ma perché si lava? Scusa, si lava, siamo puliti. Vabbè, era un po' così. E poi riproviamo l'esercizio, sì, e vediamo quanto si allunga la muscolatura della schiena massaggiando. Quindi il piede. Io, se continuo, divento alta come Deborah poi, alla fine. E io magra come Nicoletta. Vabbè, faccio questo corpicino perfetto. Dottoressa Bertelè, torni presto a trovarci. Grazie, la ringraziamo per essere state con noi. A prestissimo, grazie. Grazie. Allora, nel frattempo si sono fatte quasi le 11:20, oggi è giovedì e quindi anche qui da Cibus Italia è ora del nostro appuntamento con Investire Informati. Abbiamo portato in trasferta anche la nostra rubrica dedicata al risparmio personale, al mondo degli investimenti e all'andamento dei mercati finanziari. Allora, quello che abbiamo colto da tutte le domande che ci ponete ogni volta che ci occupiamo di questo argomento, come vanno le borse, come vanno le obbligazioni, dove investire, qual è il modo migliore, è che siete un po' indecisi sull'individuazione del consulente che dovrebbe accompagnarvi in queste operazioni, in questo momento, in questa fase molto delicata della vita di ognuno di noi. Quindi oggi volevamo fare un po' il punto sul tema molto ampio della consulenza finanziaria. Come si sta muovendo questo mondo, quali novità ci sono, ed è dunque questo oggi il tema di Investire Informati. Investire Informati. Allora, con noi oggi abbiamo due ospiti che vado subito a salutare, collegati telefonicamente con noi. Intanto un collega, Francesco D'Arco, direttore responsabile di Advisor. Francesco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Advisor, possiamo magari anche descriverla a beneficio dei nostri ascoltatori, è la rivista che si occupa, facciamo un po' la concorrenza ai colleghi di Plus 24. Vado io, no, stavo dicendo che facciamo un po' di punto su un concorrente di Plus 24 del Sole 24 Ore, ma siamo tutti amici appunto fra colleghi. Sì, Francesco, direi di sì. Cosa fate voi di Advisor? Noi ci occupiamo di consulenza finanziaria vista sempre dal punto di vista degli operatori, quindi diciamo che a differenza di Plus parliamo più agli operatori che ai risparmiatori, ma se abbiamo l'occasione, come oggi mi date voi, di dare qualche indicazione in più ai risparmiatori, lo facciamo volentieri. Grazie Francesco, e saluto anche Luca Mainò, un amico di Cuore Denari, è venuto a trovarci spesso in trasmissione. L'ultima volta che lo abbiamo incontrato è stato in occasione, forse non in questa edizione ma in quella precedente, del Salone del Risparmio a Milano con Assogestioni. Dottor Mainò, buongiorno e benvenuto, è cofondatore, buongiorno, della società di consulenza indipendente Consulti, che è membro del direttivo di NAFOP, che è l'organizzazione che rappresenta in Italia il mondo dei consulenti indipendenti. Ho detto tutto correttamente? Certo, sì, sì, è così, e grazie, buongiorno a tutti. Allora, intanto naturalmente microfoni aperti anche su questo argomento ai nostri ascoltatori, che possono chiamarci all'800 24 00 24, raccontateci chi vi segue nelle vostre scelte di risparmio e di investimento. Avete preferito fra tutte le disponibilità del mercato l'operatore bancario, il promotore finanziario, il consulente indipendente, la sim di consulenza indipendente? Veramente un mondo molto ricco, Nicoletta, sul quale bisogna fare anche un po' di chiarezza, perché, come dire, il mondo si è mosso, il mercato è ampio, quindi grande disponibilità per le persone, ma proprio per questo motivo forse anzi si genera ulteriore, certo, confusione, quindi bisogna fare molta chiarezza. Per scegliere bene, per scegliere bene quello che fa il caso nostro. Consapevolmente, direi. Allora, Francesco D'Arco, comincerei con te. Se andiamo a curiosare sul vostro sito, naturalmente io l'ho fatto in questi giorni, tu proprio da poche settimane hai scritto un articolo sui 1000 volti della consulenza. Quali sono le novità più rilevanti che dobbiamo raccontare ai nostri ascoltatori su quello che succede ai professionisti del settore? Sì, le novità più rilevanti in realtà anche in questo settore come in altri arrivano dall'Unione Europea, nel senso che senza perdersi troppo in dettagli normativi, però penso che molti ascoltatori, parlando con il dipendente di banco e il promotore, avranno sentito anche nominare la MiFID 2. Fondamentalmente è una indicazione dell'Europa, una direttiva che dovrà entrare in vigore nei prossimi anni e che imporrà perlomeno a tutti i consulenti di offrire un servizio di consulenza, però di essere pagati soltanto dal cliente. In pratica il mondo della consulenza finanziaria deve avvicinarsi ad altri mondi professionali come gli avvocati, i medici, gli architetti, che quando offrono un servizio vengono pagati per il servizio offerto, e quindi non dovrebbero i consulenti finanziari e promotori, quando offrono un servizio di consulenza, essere pagati per il prodotto che vendono, ma per quello che offrono. Invece, ecco, in Italia oggi, per esempio, nel mondo dei promotori finanziari continua a funzionare ancora secondo questa modalità che la MiFID 2 vorrebbe cancellare, demolire proprio. Sì, in Italia c'è ancora questa possibilità. È giusto anche ricordare che molti operatori, sapendo che arriverà questo cambiamento, si stanno muovendo, e che l'Italia, dal mio punto di vista, poi probabilmente altri professionisti la pensano diversamente, ha giustamente scelto una strada morbida, nel senso di portare a un cambiamento graduale, perché in altri paesi, anche perché i promotori sono diverse migliaia in Italia, per cui non è certo una trasformazione che si può fare dall'oggi a domani. Soddisfatti mediamente del servizio. Quindi quello è il grosso cambiamento, ed è un grosso cambiamento che richiederà un grosso cambiamento anche ai clienti, perché siamo abituati tutti ad andare da un medico specialista e pagare per quei 10 minuti di visita dermatologica. No, speriamo o altro che non siano 10 minuti, perché io mi rifiuto di pagare un medico che mi visita in 10 minuti. Siamo per lo specialista, magari. Però siamo un po' meno abituati a pagare per un servizio. Certo, a livello finanziario l'italiano medio è abituato a pagare per il prodotto che compra. Quindi è un cambio di approccio anche da parte dei risparmiatori, che deve essere anche in questo caso accompagnato. Allora, Francesco, abbiamo nominato intanto la figura del promotore finanziario, che è quella più nota ai risparmiatori che ci ascoltano e che ancora invito a chiamarci all'800 24 0024. Abbiamo poi certamente il consulente che troviamo in banca, che è una figura che può essere denominata diversamente. Abbiamo il personal banker, il private banker, insomma in banca troviamo altri riferimenti. Ci puoi fare una fotografia su quelli che sono i professionisti del settore della consulenza nel mondo del risparmio, appunto, e quali sono quelle preferite dagli italiani, anche se mi pare di aver capito che già qualcosa ci hai detto, perché i promotori sono tanti, diverse migliaia, e gli italiani sono abbastanza soddisfatti della consulenza che viene fornita loro. Sì, come un po' hai anche già citato, ovviamente c'è il tradizionale dipendente di banca, quindi quello più noto a tutti, che sempre più spesso adesso offre un servizio di consulenza, quindi inizia ad essere sempre più consulente finanziario. Ci sono i promotori finanziari, i private banker che lavorano per le banche private, poi per chi ha patrimoni più importanti le opportunità aumentano, nel senso che ci sono le SIM di consulenza, ci sono i family office, e ci sono, anche se ancora purtroppo non hanno la giusta visibilità, ma questo poi sono sicuro che Luca Mainola racconterà meglio, ci sono ovviamente i consulenti finanziari indipendenti, che non sono altro che liberi professionisti che svolgono la loro attività come appunto un libero professionista, un architetto che svolge la sua attività in autonomia. Quali sono i preferiti? In realtà, allora, non è stata mai fatta un'indagine effettiva di cosa scegli tra uno e l'altro. Viene fuori in realtà dalle indagini fatte, le ultime fatte da GFK Eurisco, che monitora il settore periodicamente, che i clienti e i promotori sono soddisfatti all'85% del servizio che hanno offerto. Vero è che anche i clienti delle banche si dicono soddisfatti al 70% dei servizi offerti. Quello che mi viene da dire, secondo me, questa domanda devi sottoporla a me, ma anche ad altri, tra un 6 mesi, quando ci saranno i nuovi risultati, perché questi dati che ti sto dicendo sono stati indagini realizzate prima di quest'estate, quindi fino a prima di quest'estate far contento un cliente che vedeva crescere i propri investimenti era forse più facile. Tu dici, quindi bisognerà vedere la crisi cinese e tutto il resto, che tipo di impatto avrà determinato anche nel rapporto fra risparmiatore e consulente, perché effettivamente molto spesso poi quando arrivano le batoste siamo portati ad attribuirle anche ad una cattiva consulenza. Questi poveri consulenti, insomma, gliene attribuiamo di ogni colore. Francesco, volevo solo chiederti, prima di salutarti, poi l'ultima mezz'ora la dedico a Luca Mainò, poi abbiamo anche la borsa fra un minuto, che tempi abbiamo di recepimento in Italia della MiFID 2? Quando il risparmiatore noterà nel concreto questo passaggio, diciamo, legislativo, che riguarda anche la consulenza italiana? Allora, sinceramente credo che, considerando i tempi burocratici e visto cos'è accaduto con la MiFID 1 che è entrata nel 2007, ci sono voluti almeno 2 anni, io credo che prima del 2017 degli effetti concreti non si vedranno. Sicuramente però i risparmiatori possono, visto che la tua domanda e la tua idea di introduzione era come aiutare questi risparmiatori a scegliere il miglior consulente, possono iniziare loro a imporre al consulente che hanno davanti, sia esso promotore o dipendente, a porre la domanda se quello che pagano lo pagano per il prodotto o per il servizio. Credo che i risparmiatori possono spingere molto dal basso un cambiamento. Molte reti lo stanno facendo, stanno cercando di soddisfare le esigenze dei risparmiatori, quindi non aspetterei la MiFID 2 e quello che è un messaggio che do sempre anche a molti amici che non lavorano nel settore, i risparmiatori hanno un grosso potere, hanno il potere di quando sono di fronte, sono loro la vera linfa di questo mercato, quindi possono agevolare un cambiamento molto più velocemente di quanto pensano. Allora, grazie Francesco. Prima della borsa volevo sentire rapidamente la considerazione di Luciano da Brescia, poi andiamo ai mercati finanziari, visto che poi parlerò del mondo della consulenza indipendente. Luciano invece vuole intervenire sul tema dei promotori finanziari. Mi pare, Luciano, che lei abbia avuto una buona esperienza con il suo consulente. Assolutamente sì, innanzitutto Deborah e Nicoletta, buona giornata a tutte e due. Grazie. Io diciamo che sono 30 anni che indipendentemente ho un rapporto, oltre che col promotore, è nato anche un rapporto di amicizia. Sarò molto breve, purtroppo gli italiani hanno poca fiducia dei promotori per casi che sono successi, voi perché qualcuno è scappato con il malloppo o viceversa. E la mia considerazione era che, avendo un promotore, oltre che poi ti diventa anche un amico, ti segue quando hai bisogno di consigli, te li dà senza problemi. Io vedo che quando vado in banca per altre cose, allo sportello mi trovo alle spalle gli uffici che fanno le proposte ai propri clienti perché hanno un pacchetto di prodotti da collocare, naturalmente devono fare budget. Questo è il grossissimo problema anche della consulenza, tra virgolette, che arriva dal sistema bancario. Però Luciano, insomma, lei ci ha dato già la sua ricetta per poter individuare il consulente che fa per noi, che ci accompagna anche per un lungo periodo. Un consulente per amico, un amico che diventa consulente. E certo, che quello che non si fa trovare quando ci sono le fasi avverse di mercato, ma che si faccia trovare soprattutto in quei momenti. Io direi che anche il segreto può essere questo, per trovare la persona giusta. Grazie a Luciano, è tardissimo, devo andare a raccontare subito la borsa. Subito. Cuore e denari. Forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù la vertigine. Vabbè, insomma, la canzone è Mi fido di te, non arrivo al ritornello. E Nicoletta, possiamo cantarla, però il tema della fiducia è rilevante. A microfoni spenti Nicoletta mi chiedeva, adesso vorrei fare la domanda ai tuoi ospiti, ai nostri ospiti di Cuore e Denari, su qual è proprio, come dire, la ricetta d'oro per poter intercettare, non dico al volo, perché magari è necessario anche prendersi un po' di tempo, no? Il consulente che fa per noi, date anche perché tutte i profili sono differenti. Sono profili, ho capito, differenti. Se vado da quello in banca, se vado da quello indipendente, dal promotore, poi finanziario, esattamente. Evidentemente andando sempre di più verso la strada, tra virgolette, della consulenza un po' Francesco D'Arco. E abbiamo chiesto a Francesco di rimanere perché c'è una domanda di un ascoltatore su un tema un po' più ampio che vorrei risparmiare a Luca Mainò. Però il tema è che stanno diventando sempre di più, non dico dissociati dalla casa che rappresentano, ma tentano sempre di più di giocarsi la carta della consulenza a 360 gradi. E naturalmente la vendita è un discorso che ormai sta quasi completamente tramontando, no? Quella della vendita dei prodotti. Per cui un suggerimento da dare a Nicoletta potrebbe essere: se arriva un consulente che ti vuole a tutti i costi convincere che un prodotto che hai in casa è quello migliore di tutti, io già gli dico: ma scusi, io sono co-conduttrice di Cuore Denari, proprio a me deve fare questa proposta. Francesco, adesso noi siamo state un po' burlone su questo argomento, ma potrebbe anche essere una buona indicazione quella che abbiamo dato. Sì, che io ne credo, pensi? Quello che dico sempre e che faccio anch'io, perché poi sono anch'io risparmiatore, mi verrebbe a dire in maniera molto sintetica di fidare delle promesse. Purtroppo ci sono ancora molti professionisti, pseudotali professionisti che lavorano in banca o in reti, che arrivano e promettono di riuscire a risolvere ogni situazione finanziaria, di far guadagnare, di diventare all'improvviso ricchi o comunque di non perdere il proprio capitale. Ecco, queste sono promesse che non hanno più senso. Un po' da marinaio, senza nulla togliere ai marinai. Sembra una cosa banale, ma l'approccio vero iniziale di chi viene e vuol far consulenza è un approccio di chi viene da te come cliente e i primi incontri ascolta. Nei primi incontri deve capire chi sei, bene, con che cliente, profilo ha a che fare, con che famiglia, che obiettivi di medio e lungo termine ha. Esattamente. E non è un caso che spesso e volentieri proprio i clienti dei promotori, quelli che si considerano soddisfatti, apprezzano del professionista, ma anche in banca, dei professionisti che offrono consulenza, apprezzano la capacità di mettersi anche in discussione, anche eventualmente il promotore stesso finisce col cambiare idea, certo, sulla proposta iniziale. Quindi direi di porsi nel momento in cui hai di fronte un portatore di verità, passatemi questo termine, questo vale per i promotori ma anche per quelli, per i consulenti, dicendo, certo, devi diffidare. Questo vale e per poi ecco un'altra cosa che vorrei dire, Francesco, è se un consulente di qualunque tipo ti viene a dire ti suggerisco questo prodotto perché negli ultimi 2 anni ha realizzato un rendimento del 15%, ecco, bisogna sapere che quello che è successo nel passato è passato, pertanto bisogna guardare al futuro, non c'è nessuna garanzia che lo stesso rendimento possa essere replicato. Luca Mainò, allora andiamo, prima degli ascoltatori sono pronti Giuseppe da Napoli, Luigia dalla provincia di Venezia e Claudio. E anche Claudio da Latina, Luca Mainò, andiamo ai consulenti indipendenti. Voi peraltro la settimana prossima sul Lago di Garda andrete a congresso, tutto il mondo della consulenza indipendente italiana si riunisce a questo appuntamento. Ci può raccontare oggi chi sono i consulenti indipendenti in Italia, che cos'è questa realtà che noi continuiamo a definire ancora giovane, ma ormai non siete neanche più di primo pelo, non siete più giovanissimi. Insomma, hanno passato l'adolescenza. Siete già fuori dall'adolescenza. Diciamo esatto, così. Esatto. Sì, purtroppo in effetti non siamo così giovani, nel senso che il fenomeno è iniziato a nascere una quindicina di anni fa e ad oggi coinvolge centinaia di professionisti e società di consulenza indipendente. Chi sono questi soggetti? Sono degli advisor, sono quindi dei professionisti remunerati, quindi pagati esclusivamente a parcella dalla propria clientela e non toccano i soldi dei propri clienti, nel senso che il patrimonio dei clienti, gli asset dei clienti rimangono presso gli intermediari, quindi le banche dei clienti, esatto, le banche che i clienti quindi paradossalmente, adesso io questo esempio lo faccio sempre, una persona può già essere seguita da un promotore finanziario ma magari vuole una consulenza ulteriore per capire se questo promotore gli ha fatto fare tutte le scelte giuste e può andare anche da un consulente indipendente, perché i due mondi in teoria, poi nella pratica succede dell'altro, in teoria però non confliggono, Mainò. Sì, teoricamente sì, è così. Sì, perché a lui non piace tirato moltissimo, però diciamo che in teoria potrebbe anche succedere questo. In teoria potrebbe succedere, in alcuni casi succede. In genere i clienti che si rivolgono a noi, che si rivolgono alla nostra community, in sostanza hanno il proprio patrimonio depositato presso intermediari come banche, quindi banche online, banche fisiche, divisioni private di banche. In alcuni casi, è vero, hanno anche parte del patrimonio in gestione presso alcuni promotori finanziari, ai quali magari sono legati da amicizia, di vecchia data, e quindi ci tengono comunque. Magari cominciano ad avere qualche dubbio su questo rapporto e vorrebbero capire: ho ragione di avere questi dubbi, non mi sento seguito bene. Si ha tutto il diritto di farsi fare una consulenza ulteriore. Detto questo, appunto, un consulto capita, esatto, anche in medicina, no? Un secondo parere. E poi invece esatto, consulenti dipendenti, opinion spesso avviene. A prescindere poi dalla consulenza al piccolo risparmiatore, in realtà questo mondo sta facendo, vero Mainò, anche molta consulenza agli enti locali sul mondo, certo, dei derivati, quindi vi state specializzando anche in un'area diversa che è quella appunto del risparmio puro. Detto questo, quanti siete, mi diceva Mainò, in Italia, e soprattutto se oggi avessimo stuzzicato l'attenzione di qualche ascoltatore che vuole avvicinarsi alla consulenza indipendente e cercare vicino a sé un consulente totalmente indipendente, perché dice: io della banca non mi fido, voglio fare una crescita, diciamo, per la mia vita di risparmiatore, e voglio andare ad un consulente indipendente. Dove vi trova? Beh, innanzitutto siamo diverse centinaia. Beh, noi come associazione di categoria che abbiamo fondato nel 2005 siamo circa 300 soggetti tra società e professionisti e studi professionali. Abbiamo appena, proprio recentissimamente, messo online il nuovo sito dell'associazione di categoria, che è nafop.org, e lì c'è una sezione all'interno della quale ci sono tutti i riferimenti degli studi selezionati per regione, area geografica, regione, ottimo. Esatto, quindi un cliente può andare a navigare all'interno del sito e individuare e magari fare dei confronti, quindi contattare diversi soggetti e fare dei confronti tra questi. Ecco, la cosa fondamentale è che tutti i nostri associati sono appunto indipendenti, cioè sono remunerati esclusivamente dai clienti e non percepiscono provvigioni, incentivi, rebates da nessuna società, prodotto, certo, emittenti, intermediari. Quindi, diciamo, non si va lì, si fa una chiacchierata con questo consulente e non si esce con aver firmato un contratto per la sottoscrizione di un prodotto di investimento di qualunque tipo. No, si fa solamente un'analisi della propria persona: io ho investito in questo fondo di investimento, in questo titolo di Stato, eccetera, nella casa o quant'altro. Il consulente ti dice: sì, hai fatto bene, no, ma secondo me, non lo so, per il tuo profilo magari avresti potuto implementare un po' l'investimento nel fondo comune o altro. Però non si va via con un contratto firmato su un prodotto. Ti fa una diagnosi o una terapia, come se fosse un medico, ma senza farti acquistare dei farmaci. Non in dieci minuti. Allora, avevo chiesto a Francesco di fermarsi, ecco. Vedo che l'amico se n'è andato e vi comunico già, io lo immaginavo che sarebbe successo, che ci sono tante telefonate anche sul tema dei promotori finanziari, perché chiaramente, essendo un esercito in Italia, sono quelli che prevalentemente seguono gli italiani. Noi abbiamo voluto, peraltro, Francesco, magari sempre per legarci all'attualità e per non far passare il messaggio che oggi non ci siamo voluti per qualche motivo speciale dedicare ai promotori finanziari, è perché voglio far conoscere agli italiani anche le novità, figura, che ci sono. Esatto. Abbiamo parlato di piede, esatto, però ci sono anche le mani. Esatto. Cioè, con questo. No, volevo dire che mentre i consulenti indipendenti settimana prossima vanno a congresso, anche l'ANAS, l'Associazione dei Promotori Finanziari, a breve va ad elezioni per il rinnovo della presidenza e degli organi, diciamo, di comando. Francesco, in 30 secondi poi ti lascio. In questo momento sono praticamente dal 7 settembre all'8 ottobre tutti gli associati, l'ANAS e i promotori finanziari, stanno votando via telematica quello che dovrà essere la lista dei possibili futuri presidenti dell'ANAS. Quindi è un momento molto, molto intenso, molto delicato, più che altro perché questo è un altro elemento che forse vale la pena sottolineare e che giustifica anche, secondo me, il parlare adesso dei consulenti finanziari, perché nel 2016 dovrebbe finalmente nascere l'albo unico della consulenza, ovvero dentro l'albo dei promotori finanziari dovrebbero entrare anche i consulenti. Questo istituzionalizzerebbe definitivamente i consulenti indipendenti e permetterebbe, secondo me, ai risparmiatori finalmente di avere un riferimento, certo, un'autorità per poter capire con chi hanno a che fare. Ecco, con, certo, io spero che nasca questo albo, questa casa comune della consulenza, perché Francesco si chiama così, giusto? Allora, è una nascita dato a livello, diciamo, di comunicazione da parte dell'associazione. Il nome che sta girando più a livello normativo è albo unico della consulenza, ovviamente, perché poi burocraticamente un albo chiamato casa della consulenza dubito che non è proprio ecco. Però la casa della consulenza ci piace di piace più, a noi, rende esatto, più l'idea. Ma è un parto dirti plurigemellare, Nicoletta, è poco, non perché ci sono tantissime dinamiche interne che si sono verificate in questi anni che hanno molto complicato questo percorso che conosciamo con Luca Menno e Francesco D'Arco. Molto bene, detto questo, Francesco, grazie per essere stato con noi. A presto, intanto. Grazie a voi. Grazie. Chiedo a Luca Mainò di rimanere l'ultimo quarto d'ora con noi, però adesso rapidamente il traffico. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta. Cuore e denari. Una monetina a te, una te, un'altra monetina pure a te, così fanno tre, una monetina. E allora a chi le dobbiamo consegnare queste monetine? Le mettiamo nel nostro salvadanaio, le teniamo sotto il materasso, ci facciamo aiutare a gestirle bene da un consulente finanziario, dove lo andiamo a scegliere? Insomma, un mondo molto ricco. Abbiamo però tutte le possibilità per scegliere bene, naturalmente. Prima di tutto conta un po' la pelle, anche Nicoletta, immagino che anche nella scelta del consulente finanziario, secondo te possiamo utilizzare un po' l'istinto, eh, no? Certo, potremmo perché abbiamo anche la possibilità di guardi un po' in faccia, negli eh? Occhi, esatto, di fidare di chi ti vuole subito vendere qualcosa. Questo vale in ogni campo, chiaramente, ma forse il consulente giusto è quello che si prende un po' di tempo per conoscerti bene, conoscere quelle che sono le tue esigenze, non nell'immediato ma anche nel lungo termine, e di tutta la famiglia. I consulenti indipendenti, con noi questa mattina Luca Mainocco, fondatore di Consultic, una società di consulenza indipendente tra le più, tra virgolette, anziani in Italia, ma giovane, e membro del direttivo di NAFOP. Lo scandisco bene questo nome, perché gli ascoltatori si lamentano del fatto che quando diamo i nomi dei siti non li diamo chiaramente. NAFOP.org per esatto. Conoscere l'universo mondo dei consulenti indipendenti. Perfetto. Giusto? Sì. Perfetto. Allora, nel 2016, secondo voi, questo albo comune della consulenza, dei consulenti, nascerà? Ma allora, a parte di albo, ormai diciamo che l'albo è diventato in questi ormai quasi 10 anni una leggenda metropolitana. In Italia si è pensato con varie scuse, dopo il recepimento della MIFID si è pensato con varie scuse di bloccare questo fenomeno che era in forte crescita, cioè la consulenza indipendente, anche ad esempio con una motivazione tipo mancanza fondi, che era anche ridicola, no? Pensato. Poi l'Europa, ecco, vorrei perché anche ricordare, no, anche un'altra cosina in 5 secondi, ma no, che anche molti bancari usciti dal settore bancario in questi anni di crisi del sistema e, diciamo, lasciati a casa per dinamiche interne al sistema, che aveva bisogno appunto di disfarsi, tra virgolette, di manager, si sono dati alla strada della consulenza indipendente, perché è successo, esatto, anche questo. È così, è così. Ma l'Europa con la MIFID 2 di fatto che cosa fa? Diciamo, favorisce questo fenomeno, perché con lo sdoganamento dell'aggettivo indipendente, quindi verrà messa in pista la consulenza su base indipendente, questo consentirà a milioni di cittadini di sapere che esiste un servizio di consulenza finanziaria senza conflitti di interesse, e quindi questo contribuirà a fare in modo che i risparmiatori cerchino questi soggetti. Chiaramente noi riteniamo, ma lo stiamo già vedendo nell'ultimo anno, in particolare negli ultimi 2 anni, che i risparmiatori più attenti, più informati, cercano il consulente indipendente e si focalizzano appunto sull'offerta nostra, quindi sull'offerta degli indipendenti slegati dal sistema. Certo. Le faccio sentire, ma no, un caso di un'ascoltatrice, Luigia dalla provincia di Venezia, che non ha avuto un'esperienza felice con un promotore finanziario, e ce ne sono anche, oltre a quelli, oltre ai casi di soddisfazione che abbiamo già raccontato, c'è anche invece chi è rimasto scottato duramente da consulenti, ovviamente, che dal punto di vista deontologico non si sono proprio comportati in maniera cristallina. Luigia, benvenuto, cosa le è successo rapidamente? Grazie. Sì, buongiorno e grazie a voi due donne splendide. Mi piace, già, Luigia. Io sono stata, noi siamo stati coinvolti, io e mio marito, in una truffa. I prodotti erano prodotti Forex, dico velocemente, e sì, il contratto l'avevamo sottoscritto con un promotore finanziario amico, e sottolineo amico perché lo conoscevamo da diversi bene. Anni, sì. E questo era dipendente della banca, e noi eravamo andati proprio presso la banca, e questi prodotti però non erano della stessa banca, ma di una società esterna, e lui gestiva all'interno, sì, della sua banca, nel quale era dipendente, questi prodotti. Allora, certo. Niente, Luigia, devo andare velocemente verso la chiusura. Ecco, quindi oggi lei quanto ha perso con questo scherzetto? Che cosa le ha insegnato anche questa storia? Beh, sicuramente la fiducia È molto difficile, cioè io capisco che bisogna essere preparati, bisogna assolutamente essere preparati. Perché guardi, io non è che voglio infierire su una disavventura, il mondo del Forex, Luigia, è impraticabile per un comune mortale, io lo lascerei proprio ai professionisti, ai trader, il Forex è il mercato, Luca, mai no, delle valute, e direi che se ci arriva un consulente finanziario che già ci propone come prima cosa di mettere dei soldini là, non pensiamoci 5 volte, ma penso 500-5.000. Ci dà un consiglio su questo, mai no? Ma è molto semplice, il caso della signora è un caso classico, ce ne sono stati migliaia, ce ne saranno altrettanti in futuro, cioè è fondamentale, qui ci rivolgiamo ai clienti, è fondamentale che il cliente riesca a capire quali sono le caratteristiche del soggetto che gli sta presentando una determinata soluzione, perché è chiaro che nel momento in cui il soggetto ha un conflitto di interesse, perché evidentemente se ha venduto quel prodotto sul Forex alla famiglia della signora, evidentemente avrà avuto una remunerazione. La signora ha pagato una parcella a questo signore? Non credo. E allora la domanda che bisogna farsi è: caro consulente, da chi sei pagato? Ti pago io oppure percepisci un bonifico o un assegno da un soggetto terzo? Fai il mio interesse perché sparita, ti pago io oppure sparita, no? Esatto. Luigia ci voleva raccontare che è sparita la società che aveva confezionato questi prodotti sulle valute. Lei chiedeva, chi ne risponde? Il consulente in banca che gliel'ha venduto o la società? Quello è patrimonio separato. Un bel dilemma, direi, ma per i risparmiatori, mai no, non ho molto tempo, ma in 10 secondi sono certa che una risposta ce la dà, che contestano il fatto che il consulente indipendente, comunque, anche se remunerato sulla parcella, è comunque sempre una parcella un po' salata in relazione a tutto il patrimonio da gestire. Che cosa rispondiamo? Magari dedicherò un'altra puntata a questo. Come dovete essere pagati voi? Quanto? Ma guardate, la parcella, allora noi siamo la dimostrazione vivente, dopo più di 15 anni di attività, che la gente paga la parcella, ma la paga ovviamente nel momento in cui si rende conto che l'operazione è conveniente per il cliente, ovviamente. Il modello che noi utilizziamo, che ormai è universale, è la flat fee, una parcella fissa, un onorario è difficilissima, ma no, la metto, ci faccio una cosa, ci scriva che cos'è questo tipo di parcella e noi la mettiamo su Facebook, perché non abbiamo più tempo, perché adesso diamo la linea a Viaggio nel mondo del bio e della sostenibilità e noi torniamo domani.